Nemici amici, Gantz e Netanyahu, Ghani e Abdullah, da Israele all'Afghanistan, storie di matrimoni quasi impossibili. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Benjamin Netanyahu will lead a fifth government in Israel, but for the first time he will be rotating the prime minister's job with his former rival Benny Gantz. تنش‌های سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله که ناشی از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته. Welcome back to our place of work. Buona giornata, buon lunedì, ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, una nuova settimana in compagnia di Nessun Luogo Lontano e di storie che arrivano da luoghi apparentemente lontani. Questa è la missione di questo programma. Con me c'è sempre la squadra di Nessun Luogo, Antonio Talia, Ilaria Sesana, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi Danilo Di Trani in assistenza e in console ritroviamo Peter Bescapè. 349-238-6666, sms e whatsapp, domande e commenti, ma anche i social, Nessun Luogo Lontano trattino Radio24 e Facebook, oppure Twitter. I due account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Quest'oggi vi sottoponiamo due strane storie di grande politica internazionale che si intrecciano, due avversari, ex avversari che alla fine decidono di fare la pace. Per che cosa? Per un governo, diciamo, di unità nazionale, due quadranti molto diversi e molto distanti che ci dimostreranno come a volte anche la politica internazionale mostri dei momenti, diciamo, di opportunità sentimentale. 349-238-6666 per voi, per noi invece la prima cosa da fare è sfogliare i grandi dossier. Il primo ci porta in Brasile a raccontarvi la storia del nuovo ministro della sanità, anzi dovremmo dire neo ex ministro della sanità. In effetti il nuovo ministro non ha resistito nemmeno un mese, 3 settimane circa, travolto dal comportamento da molti aspramente criticato del presidente Jair Bolsonaro e dai numeri drammatici della pandemia nel paese che spesso in queste puntate di Nessun Luogo Lontano vi raccontiamo. Nelson Take è un medico oncologo ed era stato piazzato da Bolsonaro a sostituire Luis Enrique Mandetta, che era quello che aveva ingaggiato un duro braccio di ferro con Bolsonaro sul tema di abbracciare o meno le direttive dell'OMS. Ecco, dopo un lungo tira e molla, Bolsonaro aveva sostituito Mandetta con Take, il quale aveva promesso un allineamento totale con il capo dello Stato. Salvo che alla fine vi sono stati alcuni sgarbi istituzionali da parte del presidente Bolsonaro, che per esempio ha promesso una serie di riaperture senza nemmeno consultare il ministro della salute, che è arrivato a sapere, pensate, dalla diretta TV quali sarebbero state le sue nuove direttive. Insomma, c'è stato una diatriba di 3 settimane particolarmente intensa. In questa diatriba è entrato anche il tema della clorochina, sul quale Bolsonaro aveva investito tanto anche in termini di propaganda e di immagine, farmaco che per il momento non si rivela così utile. E insomma, a questo punto, con un paese che conta 14.000 morti ed è al terzo posto per il numero di contagi e che promette ai loro di essere il nuovo focolaio ed epicentro, si trova senza il Ministero della Salute. Si vocifera nei corridoi del potere e nei corridoi dei principali quotidiani brasiliani che potrebbe essere un militare a prendere il posto del Ministro della Salute. A proposito di salute, ha parlato Xi Jinping nel consesso internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo avete sentito dal GR, è un tema che stiamo evidentemente anche noi di Nessun Luogo seguendo. Mi preme sottolineare un paio di aspetti. Il primo, voi sapete che Xi Jinping è molto raro che parli in pubblico e quindi già questa, come dire, è una notizia. Avete sentito anche l'enorme stanziamento che Xi Jinping e la Cina vogliono mettere sul piatto, 2 miliardi di dollari, scusate, per i prossimi 2 anni per una risposta globale all'epidemia. Xi Jinping ha parlato poche ore fa, è evidente che le reazioni arriveranno tra oggi e domani e saranno anche importanti per valutare cosa accadrà. Sul piatto cosa c'è? Un'inchiesta su eventuali responsabilità non meglio precisate. Attenzione, non c'è scritto sul documento che si vuole indagare sulla Cina, ma la Cina si è sentita dopo l'azione, l'incipit a questa inchiesta è stata data soprattutto dall'Australia, la Cina si è sostanzialmente sentita chiamata in causa e Cina stessa che dice non è il momento opportuno per fare un'indagine un'indagine di questo tipo. L'idea, peraltro, quando Xi Jinping ha rassicurato dicendo state tranquilli, se troveremo il vaccino sarà a disposizione delle popolazioni di tutto il mondo, la sua idea sarebbe evidentemente trasformare la Cina in un grande hub globale della sanità. E un'ultima notazione riguarda sul perché proprio l'Australia abbia dato il via a questa potenziale, enorme, gigantesca, planetaria inchiesta su cosa è accaduto durante la gestione del Covid-19. La risposta ci viene dalla risposta cinese, perché proprio oggi Pechino ha colpito con forti dazi le importazioni di orzo contro Canberra, contro l'Australia, e quindi in buona sostanza c'è un contenzioso che riguarda soprattutto il tratto di mare tra Australia e Cina e una più generale influenza economica e geopolitica di Pechino anche sul nuovissimo continente che l'Australia mal digerisce. C'è una crescente sinofobia proprio in Australia, per cui si vede che questa inchiesta sul Covid-19 e su Pechino si tinge in realtà di tanti colori diversi che proveremo, ve lo garantisco, a analizzare nelle prossime puntate. C'è già qualcuno che scrive al 349-238-6666. Non è che una donazione del genere da parte della Cina è per far ammorbidire i giudizi dell'OMS? Beh, secondo i più critici, avendo già al vertice dell'OMS qualcuno che viene tacciato di Ghebreyesus, di essere filo cinese, sarebbe, come dire, un rinforzo se si stesse giocando a briscola, ma in gioco c'è molto molto di più di un piccolo piatto e una partita di briscola al bar. Così come c'è tantissimo, e mi sto riferendo ai rapporti tra Iran e Francia, dopo che Teheran ha condannato una ricercatrice franco-iraniana, appunto, Fariba Delkha, a un totale di 6 anni di reclusione. 5 le sono stati addebitati con l'accusa di associazione e cospirazione contro la sicurezza nazionale, 1 per propaganda. Questa comunicazione ci arriva proprio dall'avvocato della donna che ha parlato l'altro ieri, 60 anni, antropologa specializzata in Islam sciita, diciamo che fa parte di una lunga serie di di persone che vengono detenute in Iran, molto spesso con doppia nazionalità, e attraverso i quali, in questo caso Francia-Iran, altre volte Stati Uniti-Iran, intrattengono una serie di prove di forza che molto spesso sono sostanzialmente l'ago della bilancia dei rapporti diplomatici fra i due paesi. La Delkha era stata arrestata e accusata di spionaggio qualche anno fa, poi il compagno, diciamo, di detenzione, erano stati arrestati insieme, era stato rilasciato e le accuse di spionaggio poi erano cadute. Vedremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, soprattutto le risposte ai francesi per capire anche se quel ruolo che Macron si era attribuito di oliatore anche dei rapporti dell'Europa con Teheran saranno confermati o se questo porterà a un irrigidimento dei rapporti. A proposito di Francia, stavolta non rapporti con l'Iran, ma rapporti con il Ruanda, quindi andiamo nell'Africa subsahariana. Perché? Perché proprio sabato è stato un weekend molto ricco, questo dal punto di vista delle notizie. È stato arrestato in territorio francese Félicien Kabunga, ai più non dirà molto, però vi basti sapere che era stato uno dei fondatori della Radio Télévision Libre des Mille Collines. Per chi si ricorda i tragici eventi del genocidio del 94, saprà e si ricorderà sicuramente anche che da quelle frequenze, da quelle trasmissioni, da quelle emissioni venne vomitato un odio razziale tale che poi si diede il via con più facilità allo sterminio di 800.000 tutsi, nonché di tanti Hutu moderati grazie a quelle milizie formate per l'occorrenza, tra le quali la famigerata Interahamwe. Pensate che Félicien Kabunga è sostanzialmente uno degli ultimi responsabili del genocidio ancora a piede libero, era ricercato da 23 anni e c'era una taglia di 5 milioni di dollari sulla sua testa. Kabunga, 34enne, resideva sotto una falsa identità, con l'aiuto e la complicità dei figli, a nord-ovest di Parigi. Adesso dovrà finire all'Aia e lì sarà processato per rispondere appunto dell'accusa di genocidio e vari crimini contro l'umanità. Questo è il nostro ricco termometro, i nostri dossier internazionali, quelli che diventeranno molto probabilmente puntate a brevissimo qui a Nessun Luogo Lontano, ma adesso, Peter, è il momento di andare in Israele. In Israele è dove nasce il governo dei record, non solamente perché l'esecutivo di emergenza e di unità nazionale, così è stato ribattezzato, di Benjamin Netanyahu e di Benny Gantz, mette fine alla crisi più lunga e più surreale della storia del paese. Si è evitato per un soffio la quarta tornata elettorale. Chi ci segue assiduamente sa che abbiamo raccontato proprio questi aspetti. Ma c'è un altro motivo di record, che è l'altissimo numero di ministri e viceministri, rispettivamente 36 e 19. In più vanta una nuova ingegneria politico-istituzionale che mai si era vista nel paese, nell'importante paese. Sostanzialmente i due ministri, primi ministri, si alterneranno alla guida con una rotazione di 18 mesi. Si comincia con Bibi, così viene chiamato Benjamin Netanyahu, e poi si finirà con Benny Gantz. Vi aggiungo un paio di pennellate politiche. Per la prima volta vi sono due donne, l'ebrea etiope Pnina Tamano Shata, che appartiene al partito di Benny Gantz, blu e bianco, che è al Ministero dell'Immigrazione. E questa è una notizia, perché proprio quella storia migratoria degli etiopi in Israele hanno spesso avuto molte difficoltà di integrazione. Sono una minoranza che in questo modo invece trova una voce di espressione anche proprio nel governo. E poi, sempre per il blu e bianco, c'è la prima donna ortodossa, Omer Yankelevich, che invece si prende il ministero della diaspora. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, che spesso abbiamo sentito nelle ultime settimane proprio in occasione di appuntamenti elettorali in Israele. Roberto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Roberto, da anni segui queste vicende, le hai raccontate anche ai nostri microfoni con dovizia di particolari. Questo è stato davvero l'anno dei record. Secondo te è più un colpaccio di Benjamin Netanyahu oppure una resa di Benny Gantz, questo strano matrimonio che tutti dicevano impossibile, lo stesso Benny Gantz? La tua è una domanda molto bella e molto difficile a cui rispondere. Allora, da un lato, se parliamo di individualismo, di carriera personale, Netanyahu ha vinto il premio della nuova vita, insomma lo si dava per morto, lo si dava per incriminato, la sbarra, il coronavirus arriva e gli fa slittare il processo di mesi, riesce a formare un governo di coalizione a 7 giorni dal nuovo processo, che al 24 maggio ricordo diventerà primo ministro per i primi 18 mesi, in cui cercherà in ogni caso di diluire o di armarsi e trovare una sorta una scappatoia. Insomma, Netanyahu non possiamo dire che abbia perso, però il prezzo che ha pagato non è stato diciamo piccolo, perché i membri del Likud hanno perso, il partito conservatore guidato da Netanyahu, lo ripeto, hanno perso dei ministeri storici, quindi è una vittoria a metà, perché se vediamo in Israele il ministero più importante è sempre stato la difesa, e la difesa è esercitata adesso da Benny Gantz, come hai detto tu, di blu e bianco, però agli affari esteri è abbastanza importante, soprattutto in questo momento di confronto con l'Iran e così via, ci va Ashkenazi, Gabi, un altro diciamo di blu e bianco. Peraltro, qui faccio una piccola precisazione, sia Gabi Ashkenazi che Benny Gantz sono due capi di stato maggiore, quindi è un governo molto militarizzato, tra virgolette. Dopodiché si prendono comunque blu e bianco anche la giustizia, e la cosa un po' particolare di questo governo enorme è che i laburisti abbiano preso l'economia e il welfare. Insomma, il Likud tiene ministeri strategici come trasporti, energie, infrastrutture, sanità, però molti e finanze, ma molti ministeri chiavi sono in mano anche a blu e bianco. State ascoltando la voce di Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, attento osservatore delle vicende israeliane ma anche palestinesi. È evidente che le vicende dei due popoli si intrecciano pesantemente, sempre e di continuo, e quelle visioni sulla potenziale annessione della Valle del Giordano, confermate da Netanyahu, poi messe in folle, diciamo, in stop per un attimo, alla quale poi peraltro Benny Gantz si associò da tempo, sono lì sullo sfondo, perché evidentemente a quel punto tutti i territori della Valle del Giordano aspettano l'eventuale decisione da parte dell'esecutivo israeliano. Roberto, ti faccio sentire la voce di David Azoni, che è editorialista del Jerusalem Post, direttore di Israel Innovation Fund, che ci dà la spiegazione di come due acerrimi nemici alla fine siano diventati quantomeno colleghi di percorso. Sentite. Israel has been in a very complicated political situation for the last year and a half. We've had three elections. Israele si è trovato in una situazione politica molto complicata nell'ultimo anno e mezzo. Abbiamo avuto tre elezioni senza alcun risultato significativo. E, cosa più importante, queste elezioni non si sono realmente incentrate su questioni ideologiche o politiche, ma si sono svolte intorno alla figura di Netanyahu. Da un lato, Netanyahu ha guidato il paese per così tanti anni, e dall'altro, in questo momento, Netanyahu è sotto accusa in ben tre casi diversi. Quindi c'è questa enorme sensazione che metà del paese crede in lui, nella sua leadership, e ritiene che abbia fatto cose eccezionali per il paese, ottenendo successi economici e sul fronte della sicurezza senza precedenti. D'altra parte, l'altra metà del paese ha la sensazione che Netanyahu sia al potere da troppo tempo, che dovrebbe esserci un limite al suo potere. E questa parte di Israele non ama la personalità di Netanyahu e lo ritiene corrotto. Le elezioni si sono svolte unicamente su questi temi. Quindi, quando anche la terza consultazione elettorale si è svolta senza un risultato definitivo, si è profilata la minaccia di una quarta elezione nel bel mezzo della pandemia. Nel momento in cui il blu e bianco, il partito di Benny Gantz, si è sfaldato e Benny Gantz ha iniziato a lavorare con Netanyahu, l'obiettivo di sconfiggere Netanyahu ha perso di significato. Insomma, tra Gantz e Netanyahu non si tratta, e non si è mai trattato, di un grande scontro ideologico. La prova è che quando Donald Trump ha reso pubblico il suo piano di pace per il Medio Oriente, Gantz ha subito dichiarato il suo appoggio, così come lo ha dichiarato Netanyahu. Oggi anche Gabi Ashkenazi, il nuovo ministro degli esteri che milita nelle file del partito di Benny Gantz, ha confermato il suo sostegno al processo indicato da Trump. Quindi Gantz non ha davvero queste enormi differenze ideologiche in termini di politiche da adottare rispetto a Netanyahu. Se il problema di Netanyahu stesso come figura viene rimosso, allora c'è un accordo. Personalmente ritengo che questo sarà un governo con grande capacità di funzionamento. Hanno una forte maggioranza alla Knesset, il Parlamento israeliano, e per la prima volta da un po' di tempo a questa parte assistiamo a un'elezione che conduce a un risultato. And for the first time in quite some time you have a decisive, definitive outcome of an election. E così, nelle parole di David Asoni, editorialista del Jerusalem Post, questo bizzarro cocktail, noi l'abbiamo ribattezzato Nemici e Amici, omaggiando anche una certa filmografia, se volete, molto molto più leggera. Qua si tratta invece di cose molto più pesanti, più importanti. C'era in gioco il destino di un paese attanagliato al Covid-19, dalla minaccia iraniana, dall'annosa questione con i palestinesi della Cisgiordania, con Gaza, con Hamas. Insomma, alla fine sembra che Nemici e Amici funzioni. Sembra un cocktail virtuoso. Così David Asoni, editorialista del Jerusalem Post. Qualcuno di voi invece al 349-238-6666 molto più prosaicamente battezza questo accordo in questo modo: quando c'è da spartirsi il potere, la soluzione si trova sempre. Qualcun altro mette in luce la dipendenza di Israele dagli Stati Uniti, l'elargizione di fondi, più in generale sostegno dell'Occidente a questo paese, e si chiede, così dice l'ascoltatore, ma se dovesse contare sulle proprie forze, quanto resisterebbe, cosa produce? Beh, in realtà, gentile ascoltatore, l'economia israeliana, adesso con Roberto Bongiorni magari mi smentirà, però vi sono dei settori che hanno funzionato e funzionano parecchio. Sto pensando a tutta la filiera delle grandi start-up di Tel Aviv, per esempio. È vero, ci sono stati fondi, ci sono stati aiuti, però ci sono delle eccellenze dell'high tech incredibili, c'è una fiorente agricoltura. Detto ciò, Roberto, se non vuoi aggiungere qualcosa su quello che è il lato prettamente economico, qui c'è un problema, perché se il piano di annessione della Valle del Giordano è ben condiviso sia da Netanyahu che da Gantz, e questo governo è tutto rose e fiori, i palestinesi la pagheranno. Sì, hai detto bene, anche se ci sono delle piccole divergenze che non sono però di poco conto. Cioè, luglio sarà un mese caldo, caldissimo, non solo atmosfericamente. Tra l'altro oggi in Israele c'è una temperatura record che fa temere che il coronavirus possa salire, perché la gente è ammassata sulle spiagge. Ma detto ciò, se Netanyahu vorrebbe subito mantenere le sue promesse, ossia annettere unilateralmente, questa è la parola che divide i due al potere, unilateralmente le colonie israeliane in Cisgiordania, dove vivono, ricordo, 400.000 coloni, non sono pochi, e frammentano tutta la West Bank, la Cisgiordania. Ashkenazi definisce sì l'accordo di, che il nuovo ministro degli esteri di Blue Bianco sì definisce un'opportunità storica al piano del secolo di Trump, però sembra che non abbia menzionato questa unilateralità. Oltretutto gli Stati Uniti e anche loro hanno compreso che forse bisogna inserirlo in un processo in cui vengano consultati anche gli attori regionali, forse palestinesi. Ricordo solo una cosa, che una parte dei vertici militari israeliani in questi giorni hanno detto attenzione, che se dovessimo annettere unilateralmente la Valle del Giordano rischiamo, e gli insediamenti, rischiamo di compromettere in modo serio le relazioni con la Giordania, che è un partner di pace strategico, l'unico paese arabo che ha firmato un accordo di pace, sì, insieme all'Egitto, con Israele. Sì. Lo stesso re di Giordania ha detto che potrebbe addirittura frantumarsi l'alleanza e il riconoscimento di Israele davanti a un'iniziativa del genere. E nelle parole di Roberto Bongiorni scopriamo ancora una volta come la questione israelo-palestinese sia sempre sullo sfondo, anche quando si tratta di governi israeliani. Ha ben ricordato come la Giordania, che funge un ruolo di mediazione importante, ha minacciato di far andare in frantumi quello che era uno dei rari accordi di pace di Israele in quella regione. Per questo ringrazio naturalmente Roberto Bongiorni, lo ricordo, è inviato del Sole 24 Ore, esperto fra le altre cose di Israele e della questione. Roberto, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. 349-238-6666. Alcuni di voi tornano a quella che è la questione, il braccio di ferro tra Stati Uniti, più in generale Cina, scusate, Occidente e Cina. Ci torneremo, perché sul tavolo dell'OMS non c'è solamente questa inchiesta, la Cina non viene nominata, ma è ovvio che tutti guardano le responsabilità, presunte responsabilità cinesi, in parte già ampiamente confermate, quantomeno nell'ambito dei ritardi della comunicazione dai governatori di Wuhan fino agli uffici centrali, a quelli di Xi Jinping. Quello Xi Jinping, lo stesso Xi Jinping che ha parlato poche ore fa e ha battezzato come non opportuna in questo momento un'inchiesta. Lo ripeto, ci torneremo a brevissimo. Qualcuno ci ricorda che anche l'Europa ha espresso la contrarietà, lo abbiamo ricordato nelle altre puntate di Nessun Luogo Lontano. L'Unione Europea ha tuonato per bocca del portavoce della politica estera Josep Borrell e ha detto attenzione, che l'annessione è un atto contrario alla legge internazionale. Vedremo quelle che saranno le prossime mosse, che sono fondamentali, perché poi ovviamente si aspettano anche reazioni da parte palestinese. Vi faccio sentire ancora la voce di David Dazoni, perché giustamente Roberto Bongiorni ricordava che mancano pochi giorni al processo per Benjamin Netanyahu. Anche questo è un altro record, abbiamo un premier in carica che sostanzialmente potrebbe finire condannato, e sarebbe evidentemente eclatante, per accuse per ben tre casi di corruzione. Quanto queste accuse possono pesare sul governo? Sentite David Dazoni, che, lo ricordo, scrive commenti ed è editorialista del Jerusalem Post. Netanyahu claims that he is the subject of Netanyahu sostiene di essere oggetto di un tentativo di colpo di stato giudiziario. È stato incriminato in tre casi diversi e ha oltrepassato i limiti legali, restando al potere, sebbene sia stato incriminato. La legge gli impone di dimettersi nel caso in cui dovesse essere condannato e, per quanto ne so, rassegnerà le dimissioni se questo succederà. Netanyahu potrà restare in carica anche se decidesse di ricorrere in appello alla Corte Suprema. Penso che resterà in carica fino a quando non ci sarà una condanna definitiva, senza possibilità di appello. Penso che rimarrà primo ministro per tutti i 18 mesi del suo mandato, a meno che non scoppi una crisi politica che porti allo scioglimento della Knesset e a nuove elezioni. Inoltre, penso che in Israele ci sia così poco interesse per nuove elezioni che la sua coalizione resterà compatta abbastanza a lungo per mantenere unito il governo. Questo è il commento, l'opinione di David Dazoni, editorialista del Jerusalem Post, direttore di Israel Innovation Fund. Un ascoltatore o ascoltatrice mi rimprovera del fatto che sentiamo ebrei e chissà cosa potevano dire, chiamate almeno Levi, visto che un palestinese nei nostri media non è possibile, tutti schierati a fianco di Israele. ovvio che si mettano d'accordo il fine di entrambi annettersi la Palestina. E dunque, gentile ascoltatore o ascoltatrice, tante volte da questi microfoni abbiamo dato spazio proprio alla controparte palestinese, a tanti pensatori, ad attivisti, tanto che l'accusa che lei mi muove viene pari pari replicata da chi invece mi accusa di essere filo palestinese. Però il tempo è quello che è, non riusciamo ogni volta a far sentire tutte le voci, ma ci siamo andati tante volte in Palestina proprio per sottolineare, compresa la contrarietà a qualsiasi legge internazionale, di questa possibile annessione. E detto ciò, ci torneremo. La prima cosa da fare adesso, però, prima di aprire la seconda pagina Nessun Luogo Lontano, è sentire come vanno le borse. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo è Lontano ci domandiamo quanto matrimoni di convivenza o nemici amici che si mettono insieme nella grande politica internazionale possono funzionare. La prima pagina tutta dedicata a Benny Gantz e Benjamin Netanyahu, che si stringono la mano, decidono di fare a rotazione il primo ministro, si spartiscono un ampissimo numero da record di ministeri e vice ministeri, il tutto sullo sfondo ovviamente della questione palestinese, perché nel mirabile piano, così è stato salutato da Israele, progettato da Donald Trump, c'era anche l'ok per l'annessione di parte del territorio palestinese, un 30% almeno, il 70% rimarrebbe palestinesi, per la creazione in futuro di un secondo Stato. Ipotesi, peraltro, secondo tanti analisti palestinesi, da noi stessi interpellati nelle scorse settimane, che anche dal punto di vista palestinese è sostanzialmente tramontato, ma staremo a vedere nei prossimi giorni. Tra pochissimo apriremo una pagina tutta dedicata all'Afghanistan, ma prima torniamo su quello che è stato un esperimento di dissidenza ai tempi del Covid-19. Qualche settimana fa, infatti, vi abbiamo dato notizia di una strana forma di protesta. In una enorme piazza, una delle principali piazze di Tel Aviv, si sono radunati con mascherina, guanti e a debita distanza una serie di manifestanti, i quali sostanzialmente avevano issato e portavano con sé delle bandiere nere. Abbiamo raggiunto Shkima Schwarzman, che è la leader di questo movimento della bandiera nera. Lei è una fisica delle particelle a Weizmann Institute of Science e membro della collaborazione Atlas al CERN. Che cos'è questo movimento? A quale ideologia fa riferimento e quali sono le istanze? Sentite. La bandiera nera è un movimento spontaneo del popolo israeliano, che si oppone al tentativo del primo ministro Benjamin Netanyahu di cambiare le nostre istituzioni democratiche in una dittatura per evitare il processo. Il movimento non ha nessun tipo di agenda politica, eccetto mantenere Israele una democrazia. Eh sì, perché forse, come dire, il riflesso di quella che è la contestazione, la diatriba politica all'interno di Israele su queste accuse pesantissime di corruzione che pesano appunto su Benjamin Netanyahu non se n'è avuto un gran riflesso sulla stampa italiana, mentre in Israele è un tema parecchio parecchio sentito. Ma che cosa pensa il movimento della bandiera nera rispetto a questo nuovo governo? Netanyahu, Gantz, sentite ancora la Schwarzman. Rispetto al nuovo governo, crediamo di essere stati ingannati con la scusa dell'emergenza coronavirus. In realtà questo governo è stato formato solo per aiutare Netanyahu a evitare il processo. Di conseguenza, ci opponiamo fortemente al nuovo esecutivo. Quindi un movimento nato spontaneamente, un movimento che non ha particolari ambizioni politiche, ma quali saranno le azioni che si prenderanno in carico per opporsi a questo nuovo governo, che evidentemente non è di particolare gusto per questi manifestanti della cosiddetta bandiera nera? Sentite. Il nostro principale obiettivo è assicurarci che Netanyahu venga processato dopo che nell'ultimo periodo ha posticipato il processo in diverse occasioni, sospendendo la Corte di Giustizia nel mezzo della notte, ogni volta con una motivazione diversa. Il processo dovrebbe iniziare domenica e ci stiamo impegnando affinché questo avvenga. Sosteniamo inoltre chiunque sia minacciato da Netanyahu e il suo entourage proprio a causa di questo processo, come giudici, avvocati e persone coinvolte nell'accusa. Rispetto al nuovo governo seguiremo attentamente l'operato, monitorando se provvedimenti presi siano pro o contro la democrazia. In relazione a ciò decideremo come procedere. La voce che avete sentito è quella di Shikma Schwarzman, che è la leader del movimento della bandiera nera. Lei è una fisica delle particelle al Weizmann Institute of Science e in più, diciamo, si è posta come obiettivo, assieme a altre migliaia e migliaia, fra l'altro sui social hanno almeno, secondo quanto ci riferiva la stessa Weizmann, almeno 10.000 utenti che seguono il movimento, hanno come obiettivo che Netanyahu fronteggi quello che è il suo destino anche giudiziario e non solo politico. Vedremo se avrà un qualche sbocco o se questo movimento rimarrà semplicemente un'istanza civile venata appunto di giudiziario. Questa è la nostra pagina, tutta dedicata a Israele. Tra pochissimo andiamo in Afghanistan, come vi dicevo, non prima di darvi conto di almeno un paio di messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. Curioso invocare le leggi internazionali nei confronti di Israele quando nei confronti della Russia e della Turchia non si sblocca mai nulla e si possono prendere i terreni che vogliono e nessuno dice niente. Così un ascoltatore, qualcun altro torna alla questione per esempio Cina-Tibet e con un tono forse un po' irriverente dice tutti zitti in quel caso e adesso le tragedie per Israele, abbiamo cacciato Saddam quando ha attaccato i vicini, adesso cacciamo anche i cinesi e poi Israele, così ironicamente, anzi direi con sarcasmo, un ascoltatore. Detto ciò, Peter, cambiamo atmosfera perché cambiamo quadrante, andiamo in Afghanistan. Doctors, bore taqsim kerdi shona erdui ma inshallah taala subuktar khod va etimad kamil darum ke shoma qabiliyat zarfiyat va mudiriyat i arzui buzurg mardum afghanistan darin hama کوشادری باشیم که ای توافقنامه عملی شود و ای به خیر مردم افغانستان است و حمایت مردم E le voci che avete sentito sono quelle di Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah. Un tempo erano acerrimi rivali, solo qualche settimana fa si è assistito a quello che era una irriverente liturgia istituzionale. Mentre Ashraf Ghani giurava come presidente, la stessa cosa faceva a poche centinaia di metri lo stesso Abdullah Abdullah. Certo, la storia recente afghana ci ha abituato a dei colpi di scena incredibili e a volte, ai noi, molto drammatici se non tragici. Proprio la settimana scorsa vi abbiamo raccontato delle ultimissime mosse, lo stesso Ghani che sostanzialmente dichiara guerra ai talebani, gli attacchi dell'ISIS, quel lungo processo svolto a Doha con dei convitati di pietra, gli afghani stessi, perché a Doha c'erano gli statunitensi e i talebani. Allora, una situazione particolarmente complessa che cercheremo di esplorare un po' meglio con l'ospite che vado a presentarvi adesso. Elisa Giunchi insegna storia e istituzioni dei paesi musulmani all'Università degli Studi di Milano. Professoressa Giunchi, buongiorno, ben ritrovata nel suo luogo lontano. Buongiorno a lei. Allora, una dei temi, dei dossier che forse raccontando l'Afghanistan nelle ultime settimane abbiamo lasciato un po' da parte è proprio il tipo di Islam che potrebbe scaturire dall'accordo, casomai vi sarà, tra talebani e il governo di Ashraf Ghani, che adesso ha stretto la mano a Abdullah Abdullah nel nome di una rinnovata unione nazionale. Andando a spulciare quella che è la recentissima storia, troviamo un caso eclatante. Quando i talebani erano al potere negli anni 90, c'era un certo tipo di costituzione e anche di divisione dei poteri che era molto incentrato evidentemente sulla religione. Allora, partiamo dal fatto che, in questo 2020 il paese rischia quasi un salto indietro nel tempo. Qualcuno potrebbe definirlo medievale, soprattutto per diritti delle donne e in generale dei diritti. Lei che opinione si è fatta di questo possibile accordo e che tipo di Afghanistan potrebbe scaturire? Sì, ecco, l'accordo, una composizione delle divergenze tra l'altro tra Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah era necessario non solo perché il paese si trova ad affrontare l'emergenza del Covid-19, ma soprattutto poi per portare avanti il processo di pace che si è profilato a Doha, a cui faceva riferimento lei. Ecco, in relazione all'accordo, innanzutto bisogna vedere se i talebani sono in buona fede. Qui bisogna ricordare che si tratta di una galassia di gruppi diversi che noi, per semplificare, chiamiamo talebani, ma è una galassia di gruppi diversi in cui le alleanze continuano a cambiare e tra l'altro i membri, diciamo, i componenti più ideologizzati di questa galassia sono poco disposti al compromesso. Quindi un sospetto che sorge è che in realtà con Doha vogliano mirare al disimpegno statunitense per poi muovere la conquista di Kabul. E in tal senso, infatti, forse va visto il loro rifiuto a dichiarare il cessate il fuoco e le continue violenze, i continui attentati contro target civili e militari. Solo a maggio, se non sbaglio, ci sono stati 92 civili tra i morti e circa 128 tra le forze governative. È vero che secondo l'accordo di Doha i talebani dovrebbero cessare le violenze contro le forze statunitense e NATO, non si sono impegnati a farlo nei confronti delle forze armate. Sì. E si potrebbe anche aggiungere che la violenza e insieme alla presenza delle truppe straniere è proprio ciò che è funzionale alla coesione interna di una galassia così composta. E comunque se anche l'accordo tenesse, anche se fosse in buona fede, il problema è effettivamente cosa fare poi dei talebani. I cosiddetti insorti marginali potrebbero essere forse disarmati e integrati, la leadership più ideologizzata forse acquisire delle posizioni di potere, ma potrebbero veramente accettare il sistema politico esistente. A mio modo di vedere la loro integrazione potrebbe essere solo, non potrebbe che annacquare diritti e libertà acquisite in questi decenni, e mi riferisco soprattutto alle minoranze religiose e alle donne. E poi c'è anche la questione di quanto una volta al potere possono continuare a fare gli interessi di altri potenti, cioè ad agire da proxy regionali. E parla del Pakistan, evidentemente. Sì, e anche dell'Arabia Saudita. Allora, mi sembra che il quadro descritto da Elisa Giunchi, lo ricordo, è docente di storia e istituzione dei paesi musulmani all'Università degli Studi di Milano, sia particolarmente fosco. Da un lato, su quanta fiducia dobbiamo riporre in questa buona volontà, almeno presunta, dei talebani, e dall'altro, quanto le poltrone per il momento occupate da Ghani e Abdullah e i loro accoliti possano anche fare gola ai talebani stessi e in qualche modo vadano ad annacquare con quella visione così intransigente dell'Islam che arriva dai talebani un Afghanistan che continua a lottare e che ha anche delle anime, no? Che cercano una secolarizzazione. Peraltro prima abbiamo sentito una band indie rock che con i talebani al potere dubito fortemente potrebbe esibirsi a Kabul. Professoressa Giunchi, le propongo una piccola pausa, andiamo a sentire le strade italiane e poi proseguiamo con l'analisi di questo martoriato, strano, affascinatissimo paese, l'Afghanistan. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano in Afghanistan, dove mettere in piedi un governo sembra una fatica di Sisifo ogni volta che si arriva alla fine della vetta, il masso gigantesco rotola giù, costringendo a chi si sta impegnando a un nuovo inutile sforzo. Cerchiamo di non condividere il pessimismo di questo riferimento così lontano nei millenni, nei secoli. Invece un riferimento che ci arriva, forse più costruttivo, adesso decidetelo voi, arriva da una serie di documenti che ha spolciato Radio Free Europe e praticamente si sostanzia in quella che era la bozza di costituzione dei talebani quando erano al potere negli anni 90. Potere centralizzato in mano al leader supremo, Islam sunnita come religione ufficiale, nessuna legge contraria alla Sharia e un'interpretazione della sharia molto stessa che lascerebbe poco spazio a diritti non soltanto di minoranze ma anche per esempio di donne e più in generale di espressione. Vi faccio sentire la voce di Habiba Sarabi, che è membro del team dei negoziatori del governo afghano con i talebani, è stata governatrice della provincia di Bamiyan E secondo lei la nuova costituzione, un nuovo assetto costituzionale talebano è proprio uno dei cardini di questa discussione, perché i talebani sostanzialmente vorrebbero fondare un emirato. Sentite cosa dice la Sarabi. On the Republic I'm a citizen, but on the Emirate I'm not a citizen. In una Repubblica io sono un cittadino, ma in un Emirato non sono un cittadino. Devo seguire quelle che sono le direttive dell'Emiro. In una Repubblica ho il diritto di candidarmi come deputato o come leader, ma in un Emirato non lo posso fare. In una Repubblica posso votare per un capo di governo o un deputato. In un Emirato dobbiamo ubbidire, semplicemente ubbidire agli ordini che arrivano dall'Emiro. In una Repubblica ho la libertà di parola. In un Emirato non posso esprimere le mie idee. Molto chiara, Habiba Sarabi. Dall'altra parte, Kabul propone la Repubblica Islamica dell'Afghanistan, evidentemente. Torniamo a Elisa Giunchi, insegna storia e istituzioni dei paesi musulmani all'Università degli Studi di Milano, che già condivideva con noi un po' di sue perplessità su questa integrazione delle varie anime dei talebani. Però non c'è soltanto questo, professoressa Giunchi. Lo Stato Islamico ha rialzato la testa, non vede la possibilità, nonostante le tante rassicurazioni dei talebani, che l'Afghanistan ritorni a essere un santuario per gruppi estremisti e che poi potrebbero risorgere come è già successo in passato. Ma io innanzitutto quindi rendo conto di pensarlo un po' fuori dal coro, non vedo l'ISIS come un soggetto nuovo, diciamo che si è impiantato a un certo punto in Afghanistan e si contrappone ai talebani. Cioè sì, sul teatro afghano si trovano delle fazioni, dei movimenti, dei fronti in un frastagliato appunto panorama di opposizione antigovernativa che cambia nomi e affiliazioni con grandissimo pragmatismo. Cioè non c'è una cesura tra i talebani e l'ISIS. Alcuni tra i talebani e altri gruppi, la rete Khan eccetera, hanno cambiato cappello perché era conveniente farlo, era una questione anche di branding e di fondi a cui avrebbero potuto disporre, e anche spesso per esprimere una differenze etniche, tribali, regionali e anche personali, contrapporsi appunto in un contesto particolarmente, non so come dire, pragmatico. E quindi a me sembra vana anche la speranza, se ammesso che ci sia questa speranza da parte statunitense, di fare la pace con i talebani per poter colpire l'ISIS, che in questo momento fa più paura. Ecco, a parte questa premessa, per ciò che riguarda il santuario, io ho l'impressione che lo sia da tempo e continui già ad esserlo. Il santuario di vari gruppi, di varia natura, che in parte sono settari e quindi in parte anche esprimono interessi di altre potenze regionali, chiave antisciita piuttosto che sunnita, gruppi presenti in Pakistan e in Kashmir che in parte attaccano anche i simboli, il personale, le strutture dello Stato, cioè in Kashmir le strutture indiane, e probabilmente, questo non lo si sa con certezza, anche vari gruppi presenti nella regione, nei paesi confinanti. Quindi io non, in questo in un certo senso forse non sono pessimista, perché penso che già sia un santuario, un'area soprattutto al confine con, in quelle terre diciamo di nessuno, tra virgolette, al confine con l'Afghanistan, che in cui si continuano a costruire e riparare armi, in cui continuano ad operare i laboratori che raffinano tra l'altro l'oppio, e in cui vari gruppi continuano a organizzarsi e a usare quelle aree come base per attentati da compiere altrove. Sì, e in buona sostanza le parole dalle tinte molto fosche della professoressa Giunchi però ci illuminano su due aspetti. Allora, da un lato probabilmente quegli accordi di Doha non porteranno a un granché di buono né per gli Stati Uniti e né per la popolazione afghana. Dall'altro questa incredibile fluidità delle varie anime, non soltanto dei talebani, comunque dell'Islam più estremo, che noi forse per comodità da occidentali con più facilità riconosciamo se ci appiccichiamo l'etichetta ISIS, Al-Qaeda o talebani. D'altra parte faceva riferimento giustamente la professoressa Giunghi anche all'appetibilità del brand, no? C'è un momento in cui Stato Islamico tira un po' di più e c'è un momento che Al-Qaeda invece è più forte. Abbiamo 40 secondi, le chiedo a spot, a slogan, se può, professoressa, prima di ringraziarla e lasciarla al suo lavoro, lavoro. Da molte parti si invoca il figlio di Massoud, il nome del Panjshir, un suo ingresso in politica. Recentemente ha scritto sul New York Times dicendo lo Stato centralizzato non funziona, è troppo burocratizzato, eccetera. Potrebbe una figura così di spessore, quantomeno spessore derivato, andare un po' a rompere le carte di questa ingessata ormai politica afghana, clientelare, così corrotta? Ma scusi, la sentivo male, diceva che propone un decentramento? Sì, assolutamente. Sì, ecco, devo dire che il decentramento risponde sicuramente meglio alla realtà e alla storia del paese, però ci sono dei pro, secondo me. Innanzitutto bisogna chiedere se può garantire uguali diritti, e quindi riferisco alle donne, sacrificate spesso in nome del relativismo culturale, del centramento politico-amministrativo. Poi il decentramento porta con sé il rischio della frammentazione su base etnica in un paese estremamente composito, E certo. In cui da anni appunto varie potenze regionali interferiscono a favore di un gruppo piuttosto che l'altro. Chiarissimo. E poi ecco, devo... un rischio è quello. Devo chiudere. Allora niente, non continuo. Allora ci risentiamo, è promesso. Professoressa Giunchi, grazie mille. Peter, una parola. E ringraziamenti a voi, alla squadra. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Gian